mondo dentro te. C'è luce, c'è buio intorno a me. Il tempo va e non si sa perché mi dici di aspettarti un po' più in là. Sembri fiume d'arginare, sembri onda che esonda. Lasci porti senza navi, riempi laghi di dolori. Inondami di te, tsunami dentro me e portami con te, l'eterno è il tempo c'è. Inondami di me, tsunami di você, levami contigo, eterno amor de ti. Se guardo intorno a me, poi taci, mergoglio e affondo insieme a te. Il tempo va e non si sa se il cielo è sceso o se ora salgo a te. E dal fondo del tuo cuore sale un mare che mi assale. E da tutto ciò che ho intorno sento amore che non muore. Nel fondo dell'oceano non tem jeito, non tem plano. Onde todo o teu carinho tem amor, non tem espelho. Inondami di te, tsunami dentro me, e portami con te, l'eterno è il tempo c'è. Inondami di me, tsunami di você, e levami contigo, eterno amor di ti. Dal fondo del tuo cuore sale un mare che mi assale. E da tutto ciò che ho intorno sento amore che non muore. Nel fondo dell'oceano non tem jeito, non tem plano. Onde todo o teu carinho tem amor, non tem espinho. Inondami di te, tsunami dentro me, portami con te, l'eterno è il tempo c'è. Inondami di me, tsunami di você, e levami contigo, eterno amor di ti.